Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Come stai, buongiorno, chef? Come buongiorno stai? A tutti. Conduco io oggi perché vedo che Piero è intento lì in suoi messaggi. Buongiorno. Hai mangiato bene questa settimana? Ho mangiato benissimo questa settimana. Solo sono un po' triste perché comincia il girone di ritorno del nostro viaggio in Italia. Senti, oggi torniamo in Liguria per la prima di ritorno del nostro campionato italiano di cucina, di ricette. Torniamo in un territorio. Ci avviciniamo sempre più al calcio. Il fattore C di cucina e calcio. Vedi, quello di cui io parlo. Abbiamo un girone di ritorno. Sto facendo tutto questo per non farti pensare che poi domani sera c'è il derby. So che già sei un po' in fibrillazione. Lo capisco. Ti capisco perfettamente. Liguria, che insomma è uno dei luoghi sacri della cucina italiana, no? È uno dei luoghi dove la cucina nasce povera. Insomma, dove la cucina povera, no, mare e terra, direi mare più terra, un incrocio grande, assoluto tra mare varietà, e terra, grande semplicità, ingredienti unici, ricette uniche. E insomma, poi per un milanese come me è molto facile da raggiungere, per cui un'ora e mezza ci arrivi, per quello che ho per quello che sono innamorato della Liguria. E quasi sempre cambia anche il meteo quando si va lì, qualche volta cambia il meteo. 349-238-6666 per i vostri SS Oldani, ovviamente mangia come parli, @radio24.it. Diamo il benvenuto a Roberto Perrone, giornalista, scrittore, grande, insomma, è un po' il mio mito, nel senso, appassionato da sempre, è stato abituato a scrivere di cibo e a scrivere di calcio. Quindi, dopo aver letto Zamora, è diventato il mio idolo. Beh, Zamora, tanta roba. Buongiorno, come stai? Ciao Roberto. Beh, dopo questa introduzione, mi sento quasi un ospite d'onore. No, ma lo sei. Senti, tu sei nato a Rapallo e vivi a Milano, quindi questa cosa del tempo che cambia l'hai sperimentata qualche volta oppure è una leggenda metropolitana? Il tempo cambia molto. Beh, la Liguria adesso è già primavera. La tua ultima scorribanda? Ma l'ultima scorribanda io devo esaltare, l'ho messo anche nei miei Oscar dell'anno, la torta di riso. Torta di riso è uno dei piatti, insomma, tipici della cucina ligure, che voi dicevate di terra di mare, ma i grandi piatti della cucina ligure sono di terra. Soprattutto di terra. Vero. Di mare, più famoso, diciamo, quello che contraddistingue, diciamo, la cucina ligure è il capomagro. Sì. Che, come diceva giustamente Pardo, nasce come tanti piatti, Davide ne sa molto più di me di questo, nasce povero, adesso costa un botto chiaramente, perché una volta si faceva col pesce di scarto e invece adesso non si fa più col pesce di scarto. Senti, mi interessa la torta di riso, anzitutto la salata o dolce, tua ricetta o mangiata dove? Salatissima, allora torta di riso praticamente non si trova più nei ristoranti, perché è una delle vittime del fighettismo contemporaneo. Esatto. Che noi combattiamo, diciamolo. Ecco, cioè, diciamo. Nel senso che, secondo me, accanto a piatti giustamente di cucina di rinnovamento, di cucina di ricerca, di invenzione, di nuovi accostamenti, comunque deve resistere una parte di cose buone, che sono buone, quindi meritano di resistere. La torta di riso è una di queste. La torta di riso è un piatto che viene praticamente una torta, insomma, alta un dito, diciamo così, salata, praticamente si fa una, in mezzo a due sfoglie, chiamiamolo così. Ti suggerisco due sfoglie di una pasta all'olio, giusto? Sì, esatto. Farina, acqua e olio. Farina, acqua e olio, si mette questo ripieno di riso, uovo, formaggio parmigiano e, diciamo, qualcuno scrive Prichinsera, ma no, Prichinsera no, si usa come formaggio, appunto, un po' di parmigiano e poi un formaggio molle tipo robiola o ricotta. Facile da lavorare. Molte volte, in tante situazioni, ho visto in case private dove la mamma, un po' la mamma anche come la mia, è in questa torta fatta con due fogli di pasta all'olio, esatto. Poi di solito carciofi, erbette, borragine, quello, eccetera, nel periodo giusto, però vedevo che c'era l'abitudine di questa persona che io adoro di mettere un sacco di riso per farcirla di più, perché sai, pulire due carciofi ci impieghi mezz'ora. Cucinare il riso è un po' più veloce, per cui molte volte era un cuscino, un aiuto per poter far bene anche una torta pasqualina deviata. Lo so che la torta di riso classica non prevede erbe, Chiaro. Se non la maggiorana nell'impasto, che però sparisce, diciamo, nel ripieno, che però poi non la vedi a livello, la senti ma non la vedi, diciamo così. E quindi praticamente nei ristoranti non si trova più, come è molto raro trovare altri piatti grandissimi della tradizione ligure, come i ripieni di verdure, cioè le zucchine, le melanzane, le cipolle ripiene, è molto difficile trovarle. Il Prebujun sì, però dai, parliamo un minuto del Prebujun. Il Prebujun mica tanto, cioè ormai trovi l'insalata ma non c'è più. Ecco, c'è un ristorante a Rapallo che lo fa ancora, il Prebujun, che come tu sai deriva da questa storia famosa della prima crociata, per cui davanti alle mura di Gerusalemme l'esercito crociato montava l'assedio e un crociato ligure preparò questa insalata minestra per il comandante in capo, che era Goffredo di Buglione, sì. E quindi Prebujun, capisci, per Buglione. Bujun in dialetto milanese vuol dire testone, eh? Sì, Bujun. Prebujun, lì voleva dire per Buglione. Diciamo che io ho due spacciatrici di fiducia, sì, che sono due anziane signore, una zia che si chiama Maria del Barbagin, Barba in genovese vuol dire zio, e quindi praticamente sarebbe la Maria dello zio Gin, perché c'erano 2000 Marie e quindi ognuna veniva, certo, veniva come dire, connotata dall'appartenenza geografica. C'era un'altra Maria di Corticella, invece questa qui è Maria del Barbagin, eccetera, che fa un attentato straordinario, e il suo segreto è che lei praticamente questo intingolo che fa il ripieno non lo mette tutto dentro, diciamo, a un certo punto, quando ha fatto, prima di mettere sopra, diciamo, invece sopra la pasta sfoglia, spalma un po' dell'intingolo avanzato, quindi viene il gusto emerge, lo trovi ancora prima, lo trovi sopra e sotto, quindi, lei lo fa per casa, per fortuna, ogni tanto lo fa a Natale, lo porta al pranzo che facciamo a Natale con la famiglia di mia moglie, tempo di durata delle sue due torte di riso 28 secondi. Senti, ci ha raggiunto Dario Vergassola, non so se ci sono delle acciughe che stanno ballando in questo momento. Ciao Dario. Buongiorno a tutti, salve a tutti, ma sentir parlare di torta di riso, la Colina è già andata e credo che duri anche fino a 18 secondi, 24 è già record battuto. Dario, buongiorno. La tua Colina principale qual è? Legata ai piatti liguri. Cioè la mia passione? Sì, la tua passione. La mia passione è quella. Io perdendo mia mamma in gioventù ho perso proprio dei ricordi, di memoria, di cose da mangiare che erano proprio la roba che seduti a tavola sentivi la famiglia unita, era quella roba lì. E quando mio papà ha rimangiato delle cose tipo rotolini col pomodoro piuttosto che dentro delle erbette, l'ho visto con le lacrime agli occhi dopo anni, perché si ricordava tanta roba, però chiaramente torta di riso, acciughe fritte, ma soprattutto ricordo di casa mio, che adesso cerco di non mangiarne in giro fuori perché non voglio avere comparazioni, sono i muscoli ripieni. Sì. Famose, dette anche, come si chiama, cozze, ma da noi si chiama mosco. Vi fermo un secondo e ripartiamo da qui. Muscoli, cozze, acciughe, Pikachu. Mangia come parli, mangia come parli. Dario Vergassola e Roberto Perrone, insomma, più Liguria di così non si può. Ci sono differenze fra la cucina di Levante e di Ponente? Insomma, voi siete tutte e due di Levante, no? Separati da 60-70 chilometri, uno è Rapallo, l'altro è Spezia, ma ci sono differenze? C'è già una differenza tra Levante e Levante, perché per esempio diciamo al nostro uomo che per esempio da noi non fanno abbastanza questi raviolini fritti che fanno più nel Ponente, che fanno verso Levanto, che fanno, sono i gattafin, no? Che sono delle specie di ravioli fritti molto buoni, che li fanno più... Di verdure? Esattamente. Come i barbajuan. Bravi, sapete tutto, siete troppo... Senti forti, Dario, una domanda, ma esperienze tue di ristoranti, qualcosa, ricordo bene o mi sbaglio? Io ho fatto la... la cazzatona gigante è quella di mettere su con un parente un ristorante che è stato il buco nero più grosso della nostra vita. Era meglio se investivo il nome al buco nero, era meglio se andavi direttamente a cena cambiavi ristorante ogni sera tutta la vita. Però diciamo che c'era un'impronta familiare da parte dei parenti di mia moglie, di suocera, eccetera, che sai, poi la cucina è un posto dove ci si può far male, quindi ci ho messo mia suocera apposta, però sai che uno scivola, però in realtà c'era una cucina molto molto ligure, e questa idea del, vi dico, dei muscoli è una roba veramente terramare, perché mia mamma era di Pignone, che prima è proprio nell'entroterra, mio papà è di Corniglia, delle Cinque Terre, e questi piatti sono veramente l'unione del terramare, perché i muscoli, che sono molto di mare, sai che poi quelle Cinque Terre sono contadini vista mare, però dentro ci mettevano delle cose strambe, il pomodoro, il parmigiano, ci mettevano dentro, attenzione, tenetevi forte, la mortadella, che cioè che è una follia, no? Certo. Una follia, però anche quando il muscolo in sé vedeva entrare il maiale, diceva Benin che mareggiata, perché insomma entrare nella sua mortadella. Ma tutte le novità che ci sono adesso nella grande cucina, questi incroci tra pesce e carne, tra dolce e salato, arrivano, se si va a studiare, a verificare bene dalla storia della cucina italiana, da nord a sud, per cui non sono così tanto strane l'abbinamento della mortadella, che poi la mortadella è un prodotto di OP, cioè voglio dire, è un grande prodotto italiano, per cui tante cose, se con l'equilibrio giusto dovessero essere abbinate, secondo me ci sta, fa parte della cultura italiana. Roberto, il piatto di cui ha parlato Dario è un esempio, ma ce ne sono altri proprio di questa regione stretta, per cui i rapporti mare e terra non forti. Un altro piatto di cui io sono un grande esperto, soprattutto sono bravissimo a farla, è la caponadda, con la D, non quella con la T, che è praticamente questo piatto del marinaio, questa insalata ricca che si fa con le gallette lasciate a inumidire nell'aceto per spiriti forti, o nell'acqua spiriti meno forti, e poi ci si mette dentro uova sode, capperi, olive, pomodori, tonno, mosciamme di tonno, che sarebbe il filetto, esatto, di tonno. Questa insalata appunto mescola un po' i sapori del mare e della terra, ed è veramente straordinaria. Capperi, acciughe anche, cioè ricchissima, insomma, certo, la mangiavano i pescatori sui pescherecci, insomma. Allora, noi stiamo per deliziarci con le ricette di Oldani, però non abbiamo parlato in un quarto d'ora abbondante di trasmissione del pesto, e insomma mi sembra un'anomalia. Bravi tutti. Hai detto giusto pesto, perché quando sento dire pesto alla genovese mi scatta la violenza, ho una domanda pesto, capisci? Ho una domanda per voi. Sì. No, una domanda per occhio, voi, Dani, con aglio o senza aglio? Dani, occhio, perché io siamo stati insieme una volta. Siamo come se piovesse. Ma aglio tutta la vita, cioè il pesto è con l'aglio. Comunque esistono tipologie, no? Esistono scuole o no? No, assolutamente. No, mortaio o frullino? Non ne viene uno uguale all'altro. Mortaio o frullino? Io l'anno scorso ho fatto il giurato ad un concorso di pesto. Non ce n'era uno uguale all'altro. Appunto. E due o tre erano veramente buoni, però tutti di sapori diversi, perché voglio dire, poi dipende dalla mano, appunto nel mortaio non tutti pestano allo stesso modo, cioè, e quindi insomma è un piatto straordinario. Comunque, che non ricapitoliamo un po' di didascalici. Allora, ovviamente basilico, genovese, assolutamente, okay, poi olio extravergine d'oliva ligure, ovviamente chilometri zero, taggiasco magari, parmigiano reggiano, grana, quello che volete, sì, pecorino, va bene? Sì, anche sì, aglio, certo, ok, pinoli. Certo, aggiungerei anche il sale. A questo punto il resto, per esempio i fagiolini, io ogni tanto trovo il certo, pesto. Ma quello è per la pasta, ricotta, vorrei bestemmiare anche la ricotta. Ah, vedi che ho tirato fuori. Ma magari provocazione, nei vecchi ricettari liguri, adesso la posso dire, la ritiriamo fuori questa, vecchi ricettari liguri. Vuoi farti una male da solo? Se Dario ha detto ricotta, io vai, insomma... Vai. Mi piace. Un zucchinin di burro. Ciao ragazzi, arrivederci, ciao, arrivederci, grazie. Arrivederci. al famoso burro. Ah, sì. Ragazzi, andiamo a vedere i grandi libri di cucina. Sì, ma io non so perché ogni due anni gli parte questa cosa che ridice questa cosa qui. No, ma perché è storia. No, dai, basta. Abdichiamo sul burro, a parte gli scherzi. Però ricotta, voglio dire, ricotta è un altro formaggio extra che non prevede il pesto, vero? Però abdicherei pure sulla ricotta. Da aggiungere dopo, nel piatto, specialmente se ci sono i bimbi, perché poi anche lì il pesto dipende da come lo fai, se lo fai più ignorante spesso un po' di più, se lo pesti di più, se lo fai più chiaro, più scuro, cioè è una roba anche lì insomma interessante, non è una robetta da poco. Senti, le foglioline in base a come sono, senti già l'odore quando le stacchi, è tutto una meraviglia. Ecco. Vorrei chiudere con le acciughe, anche perché Dario, insomma, fra i suoi libri c'è la ballata delle acciughe, immagino le acciughe a parte io impazzisco per le acciughe, sono veramente un punto di riferimento quasi identitario, no? Molto forte, molto profondo. Le acciughe di Monterosso che sono le più buone del mondo, quando parlano di acciughe cantabriche, quello che ti pare, spagnole, quello che vuoi, da noi abbiamo queste acciughe piccole, che da noi è tutto abbastanza piccolo perché il territorio è stretto, poi per me è piccolo e bello che sono piccinino anch'io, ma anche come le acciughe, come le olive taggiasche che sono piccole, le acciughe sono abbastanza piccole, molto saporite, adesso vanno di moda le sardine, ma noi rimaniamo attaccati molto alle acciughe, e fatte come ti pare, soprattutto la morte vera e questa sottosale, adesso hanno ripreso a Monterosso delle donne straordinarie a rimettere, fanno la salatura di nuovo di acciughe, te le danno da portare a casa, io ricordo che una volta l'ha regalata a Bologna un barattolo di un'arbanella di acciughe sotto sale, poi mi hanno chiamato dopo un po' per dirmi che erano buonissime, dice sono un po' difficili da fare con la pasta, dicevo ma strano, no perché il sale non viene via bene, dico scusa sale in che senso? Cioè le prendevano così col sale e le mettevano direttamente negli spaghetti, che è una cosa da mettere in galera probabilmente, cioè non le lavavano, non le pulivano, però diciamo che quelle sotto sale messe nel piatto con l'olio e un pochino di burro e torniamo al Dani, però in realtà sono e anche fritte in tutti i modi, ma anche fritte ripiene vorrei lanciarmi. No, assolutamente, sì, però sì. È comunque un pesce azzurro, bisogna fare attenzione alla cottura. Io prediligo per una precottura del pesce azzurro sempre una salagione con sale e zucchero, poi lavate, per cui perdono un po' di acqua, diventano un po' più carnose e la consistenza così di questa tipologia di cottura a secco col sale è secondo me più interessante di una cottura fatta al forno o fatta in una padella. Che viene fuori, se avete strusciato la lampada voi altri. Va bene ragazzi, grazie a tutti e due, viva la cucina degli amori impossibili di Perrone, viva la ballata delle acciughe di Vergassola, viva il pesto con i sette ingredienti, viva il Levante, viva il Ponente, ballate, che momento straordinario. Va bene, vi abbraccio e vi voglio bene, e adesso andiamo con la prima ricetta. Prego, cosa parliamo? Gianni. Scorzo nera fritta e aceto di lampone. Scorzo nera, perché ha la scorza nera, è una radice, allora direi 800 grammi di scorza nera sbucciata, tagliata a losango, quindi a pezzi anche qui irregolari di 4 cm, cotta in 2 litri d'acqua più o meno, salata appena salata con un decilitro di succo di limone. Una volta cotta la scoliamo e la teniamo da parte. Prepariamo la nostra pastella con 100 g di farina di grano duro, 3 cl di vino bianco passito, 3 cl di acqua fredda. Amalgamiamo il tutto, lasciamo riposare per almeno una decina di minuti e aggiungiamo a questo punto 2 albumi d'uovo montati a neve. È un po' una pastella che riprende la tipologia di pastella cinese e non giapponese, perché tu sai tempura non c'è l'uovo. Ovvio. Questo albume d'uovo serve per fare un involucro e sigillare bene la nostra scorza nera che andremo a friggere. A parte, tu sai Pier, che io con i prodotti un po' più grassi, o in questo caso con le fritture, aggiungo sempre una parte di acidità, quindi preparo una salsa, un agrodolce fatto con 2 decilitri di aceto di lampone ristretto di 2/3, sì, con 2 foglie di eucalipto ligure, perché ce n'è di eucalipto. Alternative al lampone? Lampone un aceto di vino bianco normale potrebbe andare bene, però parliamo di Liguria, le 2 foglie di eucalipto nel caso fossi in Liguria a farlo, se no magari 2 foglie di alloro potrebbero andare bene perché danno un profumo particolare. Sì, comunque il concetto è sempre il tocco di acidità. E una grattugiata di noce moscata. A questo punto teniamo da parte, lasciamo intiepidire il nostro agrodolce, friggiamo in olio di semi di girasole a 155 gradi la nostra scorza nera. Questa pastella che vi ho raccontato servirà appunto per fare da involucro esterno, per cui l'olio dovrà friggere, dentro avremo la nostra scorza nera già cotta, l'olio friggerà esattamente l'esterno, lo renderà bruno, più colorato, dorato, non bruno, scusate, e croccante all'esterno, morbido all'interno. Quindi poi prima di mangiare appunto vengono scolate, asciugate e poi intinte una per una prima di degustarle in questo agrodolce di aceto, eucalipto o alloro e aceto di lampone, insomma. Perfetto. Come meglio ci piace. Mi sembra ottimo, ci fermiamo, poi ripartiamo, abbiamo ancora altre ricette, abbiamo tante sorprese, lo spazio news di Essere Soldani, fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Mangia come parli, Liguria. Allora, seconda ricetta. Seconda ricetta, dai, dai, frittata con carciofi spinosi di albenga e miele. Miele, magari un po' di pera. Allora, facile, molto facile, 4 cuori di carciofo, un po' più lunghi da pulire, però bisogna, insomma, prendere un po' di tempo per la buona cucina. Tagliamo a fette sottili i nostri cuori carciofo, li addizioniamo a 4 pezzi di pera tagliati anch'essi sottili, una pera abbastanza turgida, una decana, ok? A pezzi regolari. Uno spicchio d'aglio nero, quella DOP italiana, non ligure, però DOP italiana, quell'aglio fermentato, sì, che ha un profumo leggero anche di liquirizia. Un centilitro di olio extravergine d'oliva Taggiasca, in questo caso il mio olio Rai Neri, che è un grande olio. Facciamo arrostire i nostri carciofi in un padellino con l'aglio nero e le pere. Una volta che li abbiamo fatti arrostire, li saliamo leggermente, si tratta di un paio di minuti, non di più. Li lasciamo in questi li lasciamo riposare una volta cotti per un paio di minuti. Li distribuiamo in 4 padellini da frittata, quelli bassi, massimo d'altezza di 2 cm. Distribuiamo i nostri carciofi, pere e aglio in questi 4 padellini, li facciamo scaldare, aggiungiamo le nostre uova che abbiamo sbattuto precedentemente e inforniamo. La differenza tra una frittata normale e questa è quella dell'utilizzo di un forno preriscaldato a 240 gradi. Aggiungiamo le nostre frittate che avremo fatto prima soffriggere con pera, carciofo e uova sul fornello, mettiamo nel forno e cuociamo per circa 6-7 minuti. Eseguendo questo o seguendo questo procedimento si avrà una frittata che sarà molto soffice, una sorta di soufflé, per cui molto soffice, molto ariosa e molto delicata. Una volta terminata la cottura gireremo tipo una tartatin sotto sopra la nostra frittata, che sarà appunto cuscinosa, e poi un tocco di miele sopra, un miele che possiamo scegliere per dare il tocco di dolcezza e di profumo, di freschezza. Molto interessante, devo dire che qua poi c'è Oldani in purezza, perché c'è carciofo spinoso di albenga, immagino che sia abbastanza amaro, no? Come tipo di gusto. Sì, abbastanza, e poi naturalmente se c'è questo, il tocco di dolce, il tocco di miele alla fine lo metto per bilanciare l'amaro. La solita circolarità. Però l'amaro non è da vedere come un prodotto diverso, comunque non all'altezza, no, perché no, quando si utilizza il dolce il nostro palato ha bisogno anche di sentire l'amaro per bilanciare il buon gusto. Guarda, come molte altre cose della vita, gli opposti che si attraggono e hanno bisogno l'uno dell'altro. Per esempio qui c'è bisogno di un grande olio, no? Grande olio, tu sai, abbiamo sempre parlato che il mio preferito, sono Taggiasco e sono riuscito finalmente ad avere il mio blend, la mia selezione di olio, perché collaborando con Pierluigi Rinaldi abbiamo trovato la nostra soluzione. Ciao Pierluigi, come va? Pierluigi, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti. Come va? Va, stiamo operando, ormai la nostra stagione olearia è finita, perché quest'anno non è stata un'annata eccezionale come quantità di produzione, però su indicazione dei nostri testimonial importanti anche quest'anno siamo riusciti a selezionare qualcosina di carino, e fortunatamente abbiamo chi è in grado di apprezzarlo e chi è in grado di valorizzarlo al di fuori del nostro territorio. E questo è molto importante. Cerchiamo di parlare tanto di olio, perché è veramente una delle eccellenze del Made in Italy, e perché è un compagno di viaggio di tutta la cucina italiana, no Davide? Questo è proprio, cioè, l'olio è bontà, lo utilizziamo. L'olio è bontà. Io, la mia visione nella cucina dell'utilizzo dell'olio è proprio per dare quel tocco finale su alcuni piatti e in alcune stagioni dell'anno, perché io comunque seguo anche il mio territorio, è quello di dare valore aggiunto con i profumi e la freschezza che ha l'olio. Magari Pierluigi ci può dare qualche indicazione su quello che è il profumo principale del Taggiasco? Abbiamo un prodotto che ha delle caratteristiche particolari, infatti l'oliva taggiasca, specialmente nelle nostre zone, esprime un prodotto di una dolcezza unica che ha il grande diciamo così, vantaggio di adattarsi alle cucine in particolare alle cucine un pochettino più ricercate, e dando quel sentore di delicatezza che soltanto l'olio taggiasco riesce a dare. E sicuramente una cucina di livello come quella di Davide Oldani è in grado veramente di valorizzare il nostro prodotto, e questo è stato sicuramente, ripeto, una cosa piacevolissima. Io mi sono sentito veramente anche realizzato, perché noi stiamo facendo ricerca sul nostro prodotto continua per migliorare e per identificarlo come territorialità, e Davide è diventato un testimone fondamentale. Come tu sai, io ti ringrazio. Allora, ti ringrazio, e a questo punto aspettiamo di... Cosa aspettiamo, Pier? Aspettiamo di mangiarlo, di gustarlo e di girare l'Italia a caccia di oli diversi, ma tutti veramente straordinari, a caccia della perfezione, ma anche del gusto, perché poi, insomma, abbiamo fatto mille volte questo discorso: oli diversi di grande qualità possono legarsi anche a cibi diversi, ovviamente a sensibilità diverse. Grazie per Luigi. Grazie. Complimenti per Luigi. Anche per il nome di battesimo, che non è male. Siamo in pochi e ci chiamano Gianluigi, Gianluca, è un classico. Per Luigi, veramente, siamo in pochi, una piccola comunità. Spazio News, vai. Allora, Francia, allo chef, ecco. Kobayashi, 3 stelle Michelin, il primo giapponese, ne sono stati scelti 628, dopo Bocuse nessun altro scivolo da 3 a 2 stelle. Insomma, sapete che ovviamente Michelin è una guida decisiva in tutto il mondo. In Francia poi si gioca in casa. 18 nuovi stellati a Parigi, 3 nuovi ingressi nel Dream Team delle 3 stelle. Insomma, tutto questo è stato appena annunciato dai curatori della guida Michelin, e dopo tante polemiche sulla terza stella tolta al ristorante dei pressi di Lione del defunto Bocuse, la guida ha anche detto all'AFP che non ci sarebbero stati altri declassamenti da 3 a 2. Momento top, momento chiave, iconico per tutto il mondo della gastronomia, della cucina, dell'alta cucina francese. Poi, a proposito di cose meravigliose, il San Daniele DOP, il consorzio ha aggiornato le regole. Quello che ci fa piacere sottolineare è che questo simbolo, uno dei tanti simboli, uno dei più importanti simboli del Made in Italy nell'agroalimentare, vale 330 milioni. Questo è il fatturato, che sfiora i 2,8 milioni di prosciutti nel 2018, una crescita stabile per quello che riguarda le vendite oltre confine, con un aumento dell'export a doppia cifra che c'è stato nei paesi extraeuropei, extra UE. Quindi questo significa tanto, significa che la globalizzazione non ci sta tagliando fuori su questo prodotto così importante. La filiera produttiva conta quasi 4.000 allevamenti, 116 macelli, 31 stabilimenti, evviva! E poi il cioccolato buono, Choco, ecco. Wellness Milano, la prima barretta gourmet per un progetto charity, quindi dolce, tenero e soprattutto dolce di sentimenti. Allora, Alberto Simeonato, ce ne parli tu? Ciao Alberto. Ciao Alberto, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ciao, che cos'è che avete fatto? Ma è una sorta di, come posso dire, anche di esperimento, perché abbiamo messo insieme diverse diciamo idee a scopo benefico, grazie anche allo chef Oldani. Chi aiutate e in che cosa consiste il progetto di questo cioccolato buono di gusto e buono anche di sentimento, diciamo così? Allora, aiutiamo l'ILT, la sezione di Milano, essendo noi a Milano, e cioccolato buono perché è un cioccolato molto innovativo. Cercherò di essere il più breve possibile, anche se sarebbe molto da dire, nel senso che tecnicamente è un cioccolato al latte, ma sì, ha solamente l'1% di zucchero e il 53% di cacao, quindi diciamo che è un incontro tra il latte e il fondente. Avendo così poco zucchero, l'idea che ci è venuta subito in mente era di lavorare sul mondo un po' del wellness, del fitness, ma anche di persone che seguono una dieta magari ipocalorica, no? Certo. E da lì poi con lo chef abbiamo sviluppato la ricetta, semplicemente aggiungendo del riso, perché comunque Oldani ha un certo legame anche con il riso, no? Fatto questa barretta, che è un post prestazione, post gara, diciamo così, per sia a pagarsi dal punto di vista del gusto, ma anche fare del bene. Quindi e fra l'altro, bene, fra l'altro sottolineiamo bene. Appunto la l'ILT di Milano come, come ente che verrà aiutato da questo progetto, il media partner di Amici della Gazzetta dello Sport. Chiaramente il legame con lo sport è fortissimo, ci sono tutta una serie di testimonial come, come Andrea Lucchetta, come Regina Baresi, come Roberta Vinci, ci sono grandi giocatori, grandi sportivi che hanno ispirato, per esempio Avi Sanetti ha ispirato Chicco Cerea per la creazione di un dessert dalle forme sorprendenti. Tu, Oldani, che hai fatto? Hai fatto un piatto innovativo con Gallinari, no? La caponata di melanzane nel cesto. Assolutamente sì, dedicata al mio amico. Sì, tutto ripreso da quello che è anche l'intuizione di fare sempre abbinamento a trasporto. Poi c'è Daniele Massaro, bellissimo progetto che ha avuto ovviamente tutto il sostegno da parte del comune, cioè tutte le dichiarazioni dell'assessore Guaineri. Insomma, tutto, tutto è bello, no? Quando tutto torna. La settimana scorsa parlavamo del panettone sospeso, un'altra bella iniziativa che riesce a coniugare la bontà del prodotto con le finalità. Grazie, grazie Alberto. Grazie Alberto, grazie. E in bocca al lupo ovviamente per quello che fate. E adesso io direi che ti vuoi fermare? Ci fermiamo. Perché abbiamo due grandi, abbiamo due grandi ricette davanti a noi, fra budelline poco di stoccafisso. Oh, che bello lo stocco. E poi ravioli dolci liguri, fra poco. Mangia come parli. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Paolo Conte, la grandezza di Paolo Conte, i gamberoni rossi sono un sogno. Però devo dire che anche lo stocco in umido alla Sanremese può regalare delle soddisfazioni, vero chef? Più che lo stocco, le budelline, perché è un'altra parte pregiata che vengono utilizzate naturalmente in Liguria. Io ho pensato di farle in umido, ma un umido un po' più moderno, un po' più delicato. Per cui noi abbiamo le nostre budelline circa 200 grammi per 4 persone che facciamo, lasciamo in ammollo per 48 ore, dopodiché leviamo la pelle, quella pellicina che c'è sopra che le renderebbe ancora più dure durante la cottura, le tagliamo a pezzi irregolari, le facciamo saltare in poco olio velocemente, dopodiché bagniamo con un po' di sciacchetra, si dice così, mai detto, non è corretto. Lo facciamo evaporare, quindi un po' di vino, lo facciamo evaporare, copriamo con dell'acqua e cuociamo per circa 25-30 minuti. Dopodiché, una volta cotte, le scoliamo e le teniamo da parte. Nel frattempo avremo preparato 100 grammi di zucca tagliata a cubi da un centimetro, con 100 grammi di sedano tagliato anch'esso da prima naturalmente lavato, sbucciato, tagliato a cubi di un centimetro. Facciamo rosolare in un'altra padella con un po' di olio di semi di borragine, nel caso si trovasse, altrimenti potremmo utilizzare un olio extravergine di oliva taggiasca. Facciamo rosolare per bene mantenendo al dente queste verdure, aggiungiamo le nostre trippette, bagniamo ulteriormente con un vino dolce, un passito, lasciamo ridurre, aggiungiamo un goccio d'acqua e cuociamo per 10 minuti al massimo. Teniamo da parte questa nostra preparazione, questo umido, così chiamato nella cucina classica, però in effetti non è una lunga cottura con tanto grasso dentro, e basta. Poi serviamo con un tocco di peperoncino, di polvere di peperoncino alla fine, e una grattugiata di pecorino, proprio un tocco che dà quella sapidità e quel, anche quel profumo di pecorino invecchiato, magari utilizzando anche la crosta del pecorino invecchiato, che dà quella tonalità un po' più di classico, però il piatto cucinato in questa maniera risulterebbe un umido molto più moderno. Ci piace. C'è Giuseppe Richebuono, chef del ristorante Stellato il Vescovado. Guardi, senta chef, guardi che cosa le faccio sentire, eh? Cioè, abbiamo quel pezzettino di Oldani e Lukaku con Bobo Vieri dell'altro giorno, vai. La cucina italiana ti piace? Sì. Dov'è Oldani? Oldani, ci sei? Oldani? Cioè, Oldani da qualche parte? Andalo via. Eccolo qua, Oldani, conosci lui? Vieni, entra in scena. Oldani, lui è uno dei più grandi chef italiani, eh? Sì. Davide, piacere, Oldani. Romello, come stai? Piacere, grazie mille. Lavoriamo insieme. Sì. Grazie. Io sono il mio assistente del degustatore. Diventato magro grazie a lui. Grazie Oldani, prego, bellissimo cameo. Bellissimo cameo di Oldani. Insomma, beh, t'ha fatto, beh, sei interista, sei in clima derby, ti ha fatto piacere. Piacere Romero, mamma mia. Lui per me è veramente un grande calciatore, ma una grande persona. Invece Giuseppe, sappiamo tutti che è milanista, vero? No, mi sa di no, vero? Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Davide, ciao. Sei in clima derby pure tu, domani c'è questo intermedio. I colori sono solamente nero-azzurro. Adesso, io poi sapete che insomma sono anaffettivo dal punto di vista calcistico, sono invece molto affettivo dal punto di vista gastronomico. Allora, il Vescovado di Noli, che regalaci qualcosa. Qua abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di prebugiun, abbiamo parlato di capomagro, abbiamo parlato di pesto. Budelline, stocco, abbiamo parlato di un sacco di cose, acciughe. È il nostro pane quotidiano, questi prodotti sono la Liguria, è un po', diciamo, i must della nostra cucina, quelle che ci rappresentano. Al Vescovado noi facciamo una cucina del territorio rivista, cercando di renderla piacevole al gusto e alla vista. Però fondamentalmente è una cucina di tradizione, una cucina del territorio. Tra l'altro mercoledì, se non sbaglio, inauguri il nuovo bistrò, no? Nel centro di Savona. Assolutamente, mercoledì prossimo inaugureremo questo nuovo bistrò che si chiama Rabbino, all'interno di un palazzo molto prestigioso, Savona, che all'interno del Museo della Ceramica. E quindi una nuova sfida in città questa volta. Ci siamo spostati dal mare per approdare nel centro storico. Per recuperare anche un senso forse di terra, e io so che insomma quando si parla spesso di chilometri zero, ma nel tuo caso, non soltanto nel tuo, è veramente così, cioè nel senso tu hai quello che ti dà i pomodori, quello che ti dà il formaggio, quello che ti dà l'olio, quello che ti... cioè è così, funziona ancora così, oppure no, oppure in realtà... No, funziona se noi abbiamo ancora questa passione dentro veramente di cucinare, di far conoscere il nostro territorio. Allora sì, se ti alzi la mattina ancora con questa voglia, c'è veramente la ricerca che la fa da padrone, come almeno penso nel mio caso. Tra l'altro noi abbiamo un altro ristorante, che è il Nazionale, che è al di sotto del Vescovado, dove facciamo una cucina del territorio non rivista, ma molto classica. Sì. Quindi abbiamo una triplice invece, proposta. Quindi è una proposta pop, che è quella che stai aprendo, una proposta tradizionale. Una proposta alla Oldani. Una proposta. Grazie. Una proposta più tradizionale, una proposta più innovativa. Liscia cassata, non andiamo avanti perché facciamo pubblicità, però c'è un po' quello il concetto. Per tutti i gusti, ma con lo stesso. Quello che non cambia è l'ingrediente, Davide, no? Cioè, la freschezza e l'accessibilità del prodotto. Per cui, insomma, complimenti. Per questa tua nuova anche iniziativa. Noi insomma cerchiamo come te di fare della cucina italiana veramente renderla sempre più importante, perché effettivamente poi viaggiando per il mondo ti accorgi che quei prodotti che abbiamo noi e la nostra territorialità, la diversità da regione a regione, cioè sono cose veramente uniche che trovi quasi esclusivamente in Italia. Vero. Senti, grazie del tuo contributo, grazie Giuseppe, buon sabato. Tra l'altro tu avrai questo punto di tre volte, perché non è che posso fare disparità fra uno e l'altro. Mi curiosisce... Vai da Bino e non vai da... pare brutto. Bino, il bistrò. Bino. Proviamo Bino. Sì. Bino, perfetto. Ma io forse anche il tradizionale, sai, io poi sono un po' anziano dentro, anche fuori. Va bene, SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Rosario da Caserta. Ciao chef, lo spezzatino di manzo va bollito con il vino bianco oppure con il brodo? Spezzatino di manzo, direi che il vino bianco lo mettiamo, lo facciamo evaporare, perché poi la parte alcolica evapora, insomma, dà il suo contributo. Poi io naturalmente lo farei cuocere con poco brodo, e alla fine, per renderlo più cremoso, un po' di panna, che si ritorna alla ricetta classica, che è il bianchetto di vitello. Giulia o manzo, naturalmente. Esatto, manzo, chiaro, manzo vitello. Giulia da Napoli. Buongiorno chef, ho sempre cucinato i bucatini alla matriciana. Mi suggerisci un altro modo per cucinare questo tipo di pasta? Io direi buongiorno Pier. Come un altro modo, cioè, esatto, buongiorno, buongiorno Pier. Sì, no, rispondo io. Nel senso, come, cosa fare con i bucatini o come fare altri formati di pasta per la matriciana? No, secondo me è come fare i bucatini, quel tipo di pasta con un'altra salsa, per quello che ti do, ti passo la pasta. No, cioè, allora, la facciamo così, tu rispondi su quello, io rispondo sull'altra, su altre tipologie di pasta perfette per la matriciana. Vai. Che un altro modo di cucinarlo? Sì, un altro modo di cucinarlo. Andiamo a fondo nella domanda. Io direi di farlo senza scolare l'acqua, vale a dire con poca acqua, a mo' di riso. No, ma vuole con una... altre ricette? No, no, vabbè, facciamo così, no? Cambiamo il modo di cucinare la pasta, che è l'ultimo modo che io sto utilizzando, che è quello che mi piace di più. Per cui pochissima acqua, mettiamo la pasta e non scoliamo alla fine, per cui tutte le caratteristiche importanti rimangono dentro, ti aiuta già ad addensare la salsa finale, per cui c'è già la parte buona della... Questo mi piace, l'hai fatto qualche settimana fa, mi aveva molto colpito, non mi ricordo che pasta era. Per cui le paste corte sono più, facili da utilizzare. Certo. Però con una pentola un po' grande, visto che devi straiarle le tue, i tuoi bucatini, devi stirarli tutti. E infatti, perché si mette tutta quell'acqua? Ma perché poi va scolata, perché poi hai la tua pasta e hai il tuo sugo a parte. Però per recuperare tutto il buono della pasta, secondo me, se anche non si scola, si mette anche meno grasso o comunque meno... Sta crescendo bene questo ragazzo. Giusto, Giulia, ci può, però fare. Volevo dirti, allora, i bucatini io li farei cozza e pecorino. Classico della tradizione, mi sembra, no? Il bucatino è la morte sua. E invece, per quanto riguarda la matriciana, secondo me il formato migliore rimane la pasta corta. Quindi andrei o su un rigatone, oppure, se vogliamo stravincere, andrei sulla mezza manica, che è, insomma, diciamo, è la pasta. La mezza manica. Io è... sai che su questo non parlo, perché so che tu ragazzi, hai... la mezza manica, di che stiamo parlando? Poi dipende ovviamente dal tipo di sugo, però per la matriciana o per la gricia è assolutamente perfetta, perché il sugo si compenetra, capito? C'è una corrispondenza di amorosi sensi fra... Vabbè, basta, dai. Emanuele da Cuneo. Salve chef, ho sempre fatto il risotto col brodo vegetale. Si potrebbe fare anche con un brodo di carne o di pesce? Questa è una domanda facile, per cui io lo farei addirittura con dell'acqua e poi alla fine, una volta mantecato, farei aggiungerei qualsiasi cosa sopra il riso quando è impiattato, però assolutamente sì, carne e pesce uguale. Avrei pensavo alla domanda inversa, ho sempre utilizzato carne e pesce, faccio con un brodo vegetale. Esatto, assolutamente, però, assolutamente sì. Si può fare. Ravioli dolci liguri per chiudere in bellezza. Allora, è molto semplice questo piatto. Prepariamo una pasta fatta con 200 g di farina di grano tenero, 120 g di burro salato, 40 g di tuorli d'uovo, e lavoriamo il tutto in maniera energica. Lasciamo riposare per un quarto d'ora, poi con l'aiuto di un mattarello tiriamo la nostra sfoglia dallo spessore di 2 mm, quindi deve essere quasi trasparente. Avremo preparato un impasto fatto con zucca candita tritata, tagliata a cubettini fini, mela candita anch'essa tritata grossolanamente, anzi a cubettini fini anche lei, invece grossolanamente tritiamo 80 g di cedro candito, per cui misceliamo questa frutta candita con 180 g di ricotta leggermente affumicata. Farciamo questi, mettiamo nel centro di questi di questa sfoglia che avremo tagliato a diametro di 10 cm più o meno, mettiamo al centro questo nostro impasto di ricotta e frutta candita, chiudiamo a mezzaluna e facciamo friggere con un olio, anche in questo caso di semi di girasole, a 155 gradi. Una volta scolati i nostri ravioli, io li servirei con un tocco di buccia di arancio grattugiata al momento e dello zucchero a velo sopra, perché dentro nell'impasto c'è solo la frutta candita, quindi non abbiamo messo ulteriore zucchero. La cosa strana e particolare di questa ricetta nella cucina classica era rappresentato dal midollo di bue, che io naturalmente ho cambiato con la ricotta leggermente affumicata. Assolutamente perfetto, ragazzi, è stato bello come sempre. È stato poi bello. La Liguria è, insomma, luogo dell'anima, non è che gli altri non lo siano. No, volevo dire, abbiamo visto tutti che anche in Liguria abbiamo messo cacio e pepe alla fine. No, vabbè. Abbiamo parlato di cacio e pepe. C'era una domanda, ragazzi, se Giulio da Napoli chiede il bucatino alla patriciana, ragazzi, se il bucatino alla patriciana è popolare, non è colpa mia, non è che l'ho fatto io. Con fraternità. Ciao. Ciao fratello, con fraternito. Con fraternito. Ciao.